Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. La ricerca dell'energia perduta continua questa sera nel settore dell'industria agroalimentare. È un settore estremamente vitale nel nostro paese che, come sappiamo, custodisce forse la più ricca tradizione gastronomica di tutto il pianeta. Insomma, un settore nel quale una diffusa cultura dell'efficienza energetica può portare significativi benefici. Ne parliamo con Valentina Giovenzana, dottoranda della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Milano. La dottoressa Giovenzana è in linea con noi. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, quali sono le principali voci di costo della bolletta energetica, quelle che gravano di più sul bilancio dell'industria agroalimentare? Assolutamente, per quel che riguarda la bolletta elettrica, gli impianti frigoriferi per un buon 60% e il restante 40% diciamo per il funzionamento di altri impianti come motori elettrici. Poi c'è una parte anche per quanto riguarda il consumo di energia termica e quindi l'utilizzo di metano e altri combustibili. D'accordo. Voi avete una significativa esperienza un po' su tutti questi capitoli di costo. Ecco, come si fa a intervenire? Allora, una cosa interessante sarebbe utilizzare, per chi appunto ha la possibilità, degli scarti organici derivanti dal processo produttivo. Ad esempio, mi viene in mente in una riseria la produzione di lolla derivante dalla lavorazione del risone durante la sbramatura. La lolla è quella pellicina che sta fuori dai chicchi di riso, diciamo. Sì, assolutamente, sì. La parte più scura, diciamo, esterna al riso che poi vediamo sulle nostre tavole. D'accordo. E questa lolla potrebbe essere utilizzata per appunto la produzione di energia termica. Inoltre questa lolla ha anche dei costi di smaltimento e quindi si potrebbe risparmiare in due punti di vista, diciamo così. In due direzioni contemporaneamente, esatto. Certo, si evita lo smaltimento e in più si riutilizza per produrre calore. Assolutamente, un altro caso di questo genere è l'impiego di vinaccia nelle distillerie. La vinaccia che viene utilizzata, la buccia praticamente dell'uva, quindi vinaccia esausta, avrebbe dei costi di smaltimento che potrebbero essere annullati impiegando questa come produzione di energia. C'è da dire che in questo caso la vinaccia dovrebbe essere prima essiccata e quindi è opportuno magari fare questo utilizzo di biomassa in aziende piuttosto elevate che possono permettersi quegli alti costi di investimento iniziale per l'impianto di essiccazione, insomma. D'accordo. Un'altra cosa che accade spesso è che ci sia invece del calore di scarto proprio da utilizzare, mi pare di capire. Assolutamente sì, la cosa forse più frequente in tutte le imprese alimentari è la produzione di calore. Soprattutto, come abbiamo detto prima, il 60% diciamo della bolletta elettrica, dell'energia elettrica è utilizzata per il funzionamento degli impianti frigoriferi. Questi hanno un compressore che per fare il freddo diciamo che produce anche calore, nel senso che se noi pensiamo al frigorifero di casa, mettiamo una mano dietro al frigorifero, sentiamo caldo. Se pensiamo che quello di casa è piccolino, diciamo, se pensiamo in una cella refrigerata in un'azienda, il calore che viene prodotto da questo compressore è molto elevato. Un esempio che mi viene in mente è un'azienda che produce carne bollita. Per produrre questa carne usano acqua di rete a 12 gradi che deve essere portata a ebollizione, quindi a 100 gradi. Certo. Quindi hanno una caldaia che utilizza appunto metano per scaldare 88 gradi centigradi. Bisogna portare di acqua. Su di 88 gradi centigradi la temperatura di quest'acqua, certo. Esatto. Del compressore dell'impianto frigorifero potremmo recuperare 38 gradi adesso in questo caso di calore e portarli a scaldare quest'acqua in quindi, modo tale che mi serva la caldaia per scaldare solo la temperatura da 50 a 100 gradi. D'accordo. Credo che alcuni processi nell'industria agroalimentare possano prevedere anche più fasi di riscaldamento nelle quali si può far circolare il calore, cioè non solo prenderlo dai processi di refrigerazione. Sì, assolutamente sì, possono essere utilizzate acque di lavaggio derivanti da altri processi che hanno utilizzato acqua calda, se pensiamo comunque ancora questa all'acqua di ebollizione in cui viene appunto fatta bollire la carne, se questa una volta bollita la carne diventerebbe poi scarto, questa è comunque a 100 gradi, potrebbe essere utilizzata ancora questa per scaldare altra acqua calda, come per esempio mi viene in mente quella sanitaria che viene utilizzata nell'azienda. Insomma, peraltro, si insomma. Prende questo brodo, perché alla fine viene un bel brodo, immagino, e gli si porta via un po' di calore. Assolutamente. Va bene, grazie Giovenzana. Grazie a voi. Prima di lasciarci vale la pena di sottolineare come il recupero di calore sia spesso sottovalutato non solo nell'industria agroalimentare. Sono infatti molti processi industriali che prevedono o più fasi di riscaldamento alternate a fasi di refrigerazione. In tutti questi casi è perlomeno utile valutare la possibilità di recuperare calore che altrimenti viene disperso. Aspettiamo i vostri commenti a mrkilowatt@radio24.it. Domani torniamo per parlarvi di termografia, invece una tecnica estremamente utile per quantificare le perdite energetiche negli edifici. A domani!